La ferita sembra profonda. Bisogna intervenire subito. Preparatevi, è tempo di suturare. La lacerazione misura 12 cm. Per una buona sutura è necessario fare un nodo ogni 2 cm. Ma attenzione, il primo nodo andrà fatto all'inizio della ferita, ovvero al centimetro 0, e l'ultimo proprio alla fine, al centimetro 12. Riflettete con cura. Quanti nodi vi serviranno per chiudere completamente la ferita?